Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con Europa 24. Come avete sentito, sono dunque in corso le audizioni dunque per i commissari entranti alla Commissione Europea, appunto ai 27 più il Presidente, che però non verrà sentito da nessuno, naturalmente mi riferisco a Juncker. Quindi con il futuro commissario alla ricerca Carlos Medeas e il suo collega alla sicurezza alimentare con il difficilissimo nome Andriukaitis. Quindi le audizioni dell'Europarlamento e della squadra di Juncker vanno avanti, squadra che comunque dovrà essere approvata entro il 22 ottobre a Strasburgo. Sentiamo il punto di Sergio Nava. Avvio senza particolari sorprese per le audizioni dei 27 commissari europei designati del nuovo esecutivo Juncker. Ieri è toccato ai primi 4 membri della futura squadra comunitaria con la parte del leone assegnata alla titolare del commercio Cecilia Malmström. La Malmström ha aperto la porta allo stralcio di una clausola molto contestata all'interno degli attuali negoziati Europa-Stati Uniti per il libero scambio, clausola che, se inserita nel patto transatlantico, permetterebbe alle multinazionali di ricorrere all'arbitrato per non ottemperare a determinate norme nazionali, per esempio in materia di sicurezza sul lavoro, di salute o ambiente. Un cavallo di Troia che potrebbe consentire loro di non rispettare la legislazione europea. Tuttavia la posizione della Malmström non è apparsa così decisa, alimentando un certo scontento tra i deputati. Poco convincente è stata soprattutto l'audizione del futuro commissario europeo all'ambiente e alla pesca, il maltese Carmine Vella, definito debole e inesperto da diversi eurodeputati. Nelle altre due audizioni, il futuro commissario all'economia digitale Günther Oettinger ha detto di auspicare la fine dei sovraccosti del roaming telefonico entro il dicembre 2015. Poco problematica, infine, l'audizione del commissario alla cooperazione internazionale Neven Mimica. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto siamo nel pieno della settimana europea delle PMI, in programma dal 29 settembre al 5 ottobre. Prossimo appuntamento, l'Assemblea delle PMI di Napoli, 1-2-3 ottobre, organizzata dalla Presidenza italiana, dalla Commissione europea. Sarà presente anche il Presidente della Repubblica Napolitano. L'obiettivo di queste giornate è far conoscere le opportunità offerte dall'UE alle PMI, attraverso in particolare i programmi Horizon 2020 e nello specifico lo strumento SME Instrument, per il cui utilizzo la rete Europe Network svolge un ruolo specifico di assistenza e naturalmente assistenza alle aziende e alle imprese. Allora Anna Marino ha chiesto lumi a Nicoletta Marchiandi della Camera di Commercio di Torino, appunto competente per il Nord Ovest. La settimana europea delle PMI è in sostanza una campagna di comunicazione coordinata dalla Commissione europea per promuovere quello che l'Europa fa per le imprese, e in particolare l'Europa in questo ultimo anno e mezzo ha messo in campo uno strumento molto interessante che è inserito nell'ambito del programma Horizon 2020 di sostegno alla ricerca e all'innovazione, e questo strumento si chiama strumento per le PMI, diciamo proprio contributi, finanziamenti veri e propri per progetti di innovazione e ricerca che nella prima fase di sviluppo possono portare l'azienda a ottenere subito 50.000 euro per sviluppare studi di fattibilità che poi si trasformeranno in veri e propri progetti di ricerca e innovazione. Questo strumento si è aperto a marzo e la prima scadenza è stata a giugno, e da giugno ad oggi la Commissione europea ha già ricevuto in tutta Europa circa 4.700 domande. Un vero aiuto e un vero assalto, diciamo, degli aiuti che sono anche gratuiti per le imprese, perché sì, appunto, qual è la modalità con cui le imprese possono rivolgersi a voi? La Commissione europea ha messo a disposizione delle aziende una rete di supporto gratuito che è fatta di esperti come noi nella Camera di Commercio di Torino. L'Europa conta oltre 600 di questi nodi Enterprise Europe Network, 50 sono in Italia. Intanto adesso parliamo di ambiente che riguarda dunque la strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici messa a punto nel 2013. Da allora molti paesi hanno cominciato a lavorare su strategie nazionali, paesi che appunto hanno affrontato temi in maniera diversa, non organizzata, come spiega Sara Venturini, ricercatrice del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, alla conferenza annuale della Società Italiana delle Scienze del Clima di Venezia. L'intervista e di Laura Bettini. Più della metà dei paesi europei si è già dotata di una strategia nazionale di adattamento, che è la forma primaria di coordinamento per l'adattamento a livello nazionale. Ci sono molte differenze a livello di contenuto e a livello di forma. Purtroppo le similarità sono invece le stesse, ovvero la carenza di una effettiva implementazione dell'adattamento o di garantire un monitoraggio e una valutazione dei progressi di queste strategie. In cosa si differenzia positivamente la strategia della Gran Bretagna? Una caratteristica importante è quella di contenere delle previsioni di valutazione di costo-beneficio degli impatti e delle opzioni di adattamento. Questo permette di fare una migliore valutazione complessiva di quanto il paese possa fare per gestire i rischi e le vulnerabilità relative ai cambiamenti climatici. È tutto, Europa 24 torna domani alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.